per dare la parola al carissimo Armido Rizzi, che io ho già presentato, che ringrazio di cuore e che dipenderà da lui sollecitare il nostro dibattito con il tempo che ci lascerà dopo una circa ora della sua relazione. Grazie. Non so se è stato distribuito uno schema che io avevo spedito una settimana fa, pare che non sia arrivato in... C'è adesso? Don Egino, gliel'avevo mandato sì per fax. Se vabbè, me ne dà uno ecco, anche se magari ne abbiamo uno anche. Grazie, sì. Più d'uno dei presenti, e quando avrà visto il mio nome sotto quel titolo, sarà detto, pensato, ci vuole una buona dose di incoscienza. No. Perché in questo campo io sono soltanto un amateur, per quanto curioso, per quanto appassionato, comunque uno che non si muove a casa sua. E io accetto questo rimprovero, aggiungendo, e ne è un aggravante, che non di giovanile incoscienza si tratta, come di solito, ma di senile incoscienza. Se questo comunque serve anche, il fatto del senile, serve anche questo come motivo per chiedere venia, va bene. Che cosa posso, qual è il contributo che appunto un amateur può dare in questo tema? Ma io direi, è quello di cercare di mettere un po' d'ordine, e in due sensi del termine, un po' di ordine analitico, e cioè di, direi, di igiene semantica, nel senso che ci sono alcune voci, alcuni concetti che vengono usati in questo giro di informazione e discussione che riguarda il nostro tema, alcune voci, alcuni concetti che hanno più di un'accezione. E allora io credo che sia sempre in ogni discussione un buon e necessario punto di partenza quello di spaccare il capello, se non in quattro, almeno in due o in tre, a secondo i casi. Allora, su alcune delle voci che incontreremo, ecco, penso il mio piccolo contributo possa essere quello di passare dallo stato di magma confuso, appunto, allo stato di una prima delineazione di significati diversi. Secondo, poi, un ordine compositivo, e cioè di creare un certo quadro, di segnare un primo approssimativo quadro dentro il quale collocare una serie di dati e, di nuovo, di idee e di concetti. Ecco. Allora, questo ordine analitico e questo ordine compositivo, penso, ecco, spero, possa essere il piccolo contributo che la mia relazione intende dare. Ecco. Di più, no. Spero anche di meno, no? Inizierei la conversazione con la lettura di un testo di uno dei più grandi missionari del Cinquecento, noto più che come missionario, come il primo degli etnologi o etnografi. È il testo con cui Bernardino de Sahagún, francescano in Messico, nel 1564 introduceva la raccolta di un altro testo, cioè il cosiddetto colloquio dei dodici, i colloqui dei dodici, cioè quelle relazione della, appunto, dei colloqui che i primi dodici francescani in Messico ebbero con i sacerdoti messicani nel 1524. Allora, a 40 anni da questo importantissimo colloquio tra le due parti, il confratello sapiente raccoglieva questi testi e li introduceva. In quasi tutto il mondo cristiano è noto che dai tempi della Chiesa delle origini fino ad oggi Nostro Signore Dio non ha compiuto sulla terra cosa più degna di essere ricordata che la conversione degli idolatri. avvenuta in queste Indie del mare oceano a partire dal 1520 sino a questo 1564. Sia perciò ben chiaro a tutte le generazioni future che, 100 anni prima di questo 1564, in ogni paese del mondo si ignorava che in questa parte del mare oceano esistessero esseri umani, popoli o comunque terre abitabili. Anzi, quasi tutti gli astronomi, fisici, cosmografi affermavano nei loro scritti e davano come cosa accertata che tutta la Terra situata al di sotto della linea zodiacale, altrimenti detta zona torrida, era inabitabile a causa dei grandi ardori del Sole. Scrissero persino che fra le linee eccetera eccetera. Ora, noi sappiamo per esperienza che ciò era falso. Ci consta infatti che nostro Signore Dio, per i suoi reconditi motivi, ci ha tenuta nascosta sino ai nostri giorni questa terra, di cui ancora non si conosce la fine, e i suoi diversi regni e popoli, che sono quasi innumerevoli. Era stata annunciata nella Chiesa molto tempo prima, come risulta dalle rivelazioni di Santa Brigida, l'esistenza di esseri umani e di popoli che un giorno sarebbero confluiti in seno alla Chiesa. Quindi, giunto il momento prescelto da nostro Signore Dio di rendere manifesta e di accogliere in seno alla sua Chiesa questa moltitudine di esseri umani, di regni e di nazioni, intorno agli anni 1500 mise in cuore agli spagnoli l'idea di venire a scoprire l'Occidente attraverso il mare oceano. Ho letto questo testo perché non è certamente l'unico, ma è quello che forse meglio di altri unisce al senso così enfatico della grandiosità dell'evento anche un tentativo così di disarticolarlo, di analizzarlo, di vedere in che cosa consiste questa grandiosità e questa unicità. L'evento è chiaramente allora qui messo nei termini di scoperta, termine questo oggi molto contestato come espressione di eurocentrismo, termine che a me sembra legittimo se lo si assume in quell'accezione prima puramente descrittiva. Ecco, pensando che a scoprire il cosiddetto nuovo mondo non era soltanto l'Europa, ma era, direi, attraverso l'Europa, per così dire, era tutto il vecchio mondo, ed era cioè tutto quel complesso che è rappresentato dai tre grandi continenti, nei confronti dei quali, per così dire, ecco, mancava ancora proprio l'Amerindia, il nuovo continente, per raggiungere il nostro mappamondo, per raggiungere, ecco, la visione planetaria del mondo abitato dagli umani. Da questo punto di vista era giusto parlare di scoperta dell'America, sia dal punto di vista delle terre, ma specialmente dal punto di vista delle innumerevoli popolazioni, innumerevoli popoli e regni che li abitavano. Allora, se dal punto di vista delle terre l'interesse poteva essere la curiosità scientifica o soprattutto la ricerca di nuove ricchezze per il nascente capitalismo, borghesia da una parte e dall'altra società nazionali, dal punto di vista della scoperta di nuove popolazioni, questo qui la sorpresa diventava insieme grande stupore e senso della missione. Grande stupore che per 1500 anni Dio avesse tenuto nascosto a queste popolazioni il suo Vangelo, la sua parola di salvezza. E quindi la domanda di come mai, perché questo è avvenuto, una domanda che di per sé non poteva avere risposta se non dicendo, ecco, Dio serba nel suo cuore come un mistero la ragione di questo occultamento. Ma dall'altra parte invece l'altrettanta certezza che questa scoperta di nuove popolazioni significava l'imperativo missionario, l'imperativo urgente a mettere fine a quel velo che le aveva tenute lontane dalla parola di salvezza. Un altro cronista, più o meno negli stessi anni, ebbe a scrivere che la scoperta del nuovo mondo era il più grande avvenimento della storia del mondo dopo l'incarnazione del suo creatore. Credo che dobbiamo, ecco, tenere sullo sfondo di tutto quanto ora diremo questa effervescenza, ecco, l'enfasi posta non per una, così, per un gioco retorico, ma davvero per una percussione che si nota in molti degli scrittori del tempo e che senza dubbio rispecchia quello che era, ecco, il senso, lo stupore da una parte e dall'altra la certezza di vivere in un momento decisivo della storia umana e da parte delle coscienze più vive la certezza di avere davanti a sé un compito di annuncio, un compito missionario, quale fin dal tempo degli apostoli, ecco, poteva avere il suo pandang in grandezza solo al tempo degli apostoli, della prima predicazione cristiana. Allora, il fatto scoperta e il progetto umano, conoscenza o arricchimento, veniva letto in una visione provvidenzialista, ecco, come Dio mise in cuore agli spagnoli, il Signore Dio, l'idea di venire a scoprire attraverso il mare e oceano, attraverso il mare e oceano, l'Occidente. Ecco, il dato e il senso umano del dato sono letti come avvolti dentro questo senso superiore che è l'annuncio di salvezza a tutte le popolazioni che allora non, che fino allora ne erano state misteriosamente escluse. Quindi questo è il fine, non il fine che i missionari o la Corona di Spagna o il Papa stesso davano, conferivano alla scoperta, ma il fine che essi leggevano come posto voluto da Dio stesso della scoperta, portare la parola di salvezza agli indios. Secondo, la missione di portare questa parola è affidata alla Spagna, intanto perché è stata la Spagna a fare la scoperta, e secondo perché per una serie di ragioni su cui non è qui il caso di indagare, che pronde su cui io so molto poco, ma perché i papi, a partire da Alessandro VI, con una serie di bolle, 5 o 6 mi pare, di cui la più famosa è la Intercetera, già nel 1493, quindi a pochi mesi, dalla 6 mesi più o meno, dall'annuncio dato da Colombo, conferiva alla Spagna e in cogestione con una bella divisione, no, al Portogallo, ma qui ci interessa soprattutto la Spagna, conferivano alla Spagna dunque la missione evangelizzatrice. Ora, è probabile che poi buona parte del come sono andate in seguito le cose in questi 500 anni dal punto di vista dell'evangelizzazione siano proprio dipese da questo fatto che si è partita dalla Spagna e non da un altro paese europeo. Perché? Ecco, direi in positivo, perché la Spagna era, a detta di più di uno storico anche non di parte, anche non cattolico, era allora il paese in cui la riforma religiosa era più profonda e più estesa. La riforma cattolica, la riforma prima della riforma che normalmente si scrive con la S maiuscola, con la R maiuscola. La riforma cattolica, dicevo, era la più profonda e la più estesa, e io ricordo soltanto così alcuni nomi, come quella della riforma culturale e spirituale insieme, avviata dalla cardinale Jiménez, quella che tra l'altro darà quel frutto altissimo, no, della Bibbia poliglotta di Alcalà, la Bibbia Complutensis. Ricordo l'erasmismo che ha la Spagna come suo principale paese di diffusione, benché Erasmo personalmente non fosse mai arrivato in Spagna, però c'è arrivata la sua dottrina, la sua spiritualità attraverso la corte di Carlo V, no, Fiammingo. E ricordo in particolare, perché poi riguarderà tutta l'evangelizzazione del Messico, io accenno soltanto perché ne sentiremo poi parlare, mi pare, stasera stessa, la riforma francescana, una delle tante riforme francescane, con l'assillo, per così dire, di tornare alla purezza delle origini, specialmente in fatto di povertà, e al tempo stesso come una addizione d'anima di una ispirazione millenaristica, utopica, ma penso appunto che di queste cose sentiremo parlare più tardi. Ecco, questi erano movimenti già in corso e che quindi in qualche modo creano come il brodo di cultura dello slancio missionario. Più tardi questo slancio verrà accompagnato da altri fenomeni di riforma spirituale e intellettuale, come appunto la scuola di Salamanca, come la fondazione della Compagnia di Gesù e poi come tutta la fioritura mistica, no? Soprattutto nel Carmelo. Allora, ecco, che una missione sia diventata passione, se mi permettete questo gioco di parole, credo questo è davvero dovuto al fatto che questa missione è stata affidata a questo grande e ambiguo paese, ma senz'altro grande, che era la Spagna a cavallo tra 4 e 500. Ambiguo perché, ed è l'altra faccia, ecco, è il paese in cui probabilmente in maniera più pesante era avvenuta quella commistione, quella identificazione al limite tra dimensione religiosa e dimensione politica, per cui, ecco, il cristianesimo, ma non era ancora cattolicesimo nel senso strettamente confessionale, il cristianesimo e poi il cattolicesimo fanno tutt'uno con la coscienza nazionale. La ragione principale di questa è dovuta al fatto, sappiamo, che per 7 secoli la Spagna era stata impegnata nell'espellere quei mori, quei musulmani, che nel 700 l'avevano conquistata. Ecco, e proprio nello stesso anno in cui Colombo veleggia verso il nuovo continente, qualche mese prima, se non sbaglio a gennaio, era caduto l'ultima enclave di presenza araba in Spagna, Granada. Allora, ecco, la cosiddetta reconquista, no, la riconquista della Spagna, che cosa? Alla coscienza e alla presenza cristiana, espellendo fisicamente sia coloro che erano stati prima la parte vincente, no, i musulmani, sia coloro che invece erano stati sempre minoranza, no, gli ebrei, in modo da, per così dire, da purificare da queste presenze spurie e da creare quella limpiezza de sangre, che è un concetto insieme fisiologico, culturale, religioso. Bene, è dunque da questo stesso connubio e contaminazione tra religioso politico, di cui al limite anche addirittura biologico, che nasce, è anche da questo che nasce la grande impresa della scoperta e poi della conquista e poi delle modalità che assume tutta la presenza della Spagna in America Latina durante tutta la colonia. È da questa ambiguità che nasce, trasferita nel nuovo continente, l'ambiguità, sì, su cui noi non dobbiamo qui fermarci, se non nella misura però in cui riguarda l'evangelizzazione, l'ambiguità del connubio tra il Vangelo e la croce, tra il Vangelo e la spada, tra la croce e la spada, eccetera. Io mi limiterò a far considerare brevissimamente quell'aspetto che poi incide appunto sulla modalità, forse sull'ispirazione della evangelizzazione. Beh, intanto il duplice aspetto, la duplice, se vogliamo, livello di questo connubio tra il Vangelo e la spada, l'aspetto strutturale, e cioè il fatto che il Vangelo viene portato non solo effettivamente, no, ma per principio viene portato, viene non solo accompagnato, ma fatto precedere da una conquista, il fatto che viene inteso come organico alla presenza cristiana, che gli abitanti del Nuovo Mondo diventano dei cittadini di Spagna, ma di fatto dei cittadini di second'ordine, dei vassalli della corona di Spagna, e il fatto che si vede che la loro coesistenza venga organizzata in una serie di istituzioni, di cui la più famosa è la cosiddetta encomienda, termine molto bello, che vuol dire l'affidamento, un po' come quasi noi diciamo oggi, no? Dare un bambino in affidamento o in affido una famiglia, no? Così, ecco, l'affidamento di un certo numero di indios ad alcuni coloni spagnoli, i quali dovevano curarne la preparazione spirituale, la catechesi, la formazione religiosa, e riceverne in compenso, in una specie di ideale scambio di beni, no? Noi vi diamo i beni spirituali e voi ci date quei beni che ci servono alla nostra sussistenza. Ecco, dunque, questa figura ideale che poi in realtà diventa, direi, il luogo quotidiano del sopruso e della violenza della presenza spagnola sull'India. Ora, mi sembra importante comunque distinguere, no, l'aspetto strutturale da quello che invece poi è l'esercizio effettivo, in buona parte non giustificato né dalla corona né dai suoi rappresentanti in loco, né tantomeno dai missionari, no? L'aspetto fattuale, ecco, della violenza e degli elementi che la scatenano, in una certa misura la gratuita crudeltà, in una più ampia misura la ricerca appunto sfrenata, ossessiva dell'oro. Comunque, quando poi non si trova più l'oro, allora della vendita degli schiavi, ecco, della ricchezza, del denaro. Dico, mi sembra importante distinguere perché dal punto di vista del connubio strutturale, la presenza della Chiesa è di fatto, ma anche in buona misura di principio, presenza legittimante. A rifiutare l'encomienda come tale è Bartolomé La Scassa, se non molti altri. A rifiutare invece la conquista attraverso la guerra, e saranno molti, ma a cose fatte praticamente. Così come molti, la maggior parte, a cose fatte, accetteranno oramai come un dato la istituzione della encomienda, accetteranno la istituzione del lavoro nelle miniere, eccetera. Ecco, direi che, ripeto, salvo alcune poche eccezioni, la presenza cristiana, la presenza missionaria, la presenza evangelizzatrice, cerca di umanizzare le istituzioni coloniali, non le contesta come tali. Allora, in queste due parti della mia affermazione, ci sono un po' le due facce, cioè tutta intera, mi sembra, la ambiguità di questa presenza. Non le contesta come tali, da una parte, cerca di umanizzarle, dall'altra. Ed è proprio in questa seconda faccia che, al di dentro di essa, che nasce la grande pagina di cui sentiremo parlare domani, che qualcuno considera una specie di teologia della liberazione ante litteram, la grande pagina della difesa dei diritti degli indios in chiave teologico-filosofico-giuridica, che a noi qui interessa solo nella misura in cui, ecco, si aggancia alla evangelizzazione. Certamente, in linea di principio, difesa dell'indio ed evangelizzazione appartengono a due diversi livelli. Nella Relectio de Indis del De Vitoria la cosa è molto chiara. Gli indio sono veri domini delle loro proprietà e della loro... senza, quindi sono liberi e capaci e hanno il diritto di disporre di sé in quanto sono imago dei, e sono imago dei in quanto dotati di natura razionale. Ed è per questo che De Vitoria potrà allora dire, non potrà delegittimare i titoli di conquista tipo la, che provengono da una presunta presunto investimento spirituale da parte del Papa o investimento temporale da parte della Corona di Spagna, eccetera. Dunque in De Vitoria la difesa dei diritti dell'indio se il discorso sull'evangelizzazione è in linea di principio, sono due discorsi diversi, anche se poi di fatto egli stesso più volte nel suo testo distingue tra il per sé e nella situazione effettiva, e vede che le due cose a volte sono difficilmente disgiungibili. Ma io vorrei, perché questo secondo aspetto probabilmente non verrà trattato, probabilmente dico, essendo solo così un tentativo di fiutare, di leggere tra le righe, vorrei invece mostrare come, almeno in Bartolomé Las Casas, difesa dei diritti degli indios e compito di evangelizzazione sono così strettamente uniti che è falso, no, va bene distinguerli, no, ma che sono inseparabili. Non so se egli abbia anche espressamente tematizzato questa unità. Il testo cui io mi rifaccio, che è anche il più diffuso, il più noto suo, che non è di per sé un testo teologico, è la brevissima relazione della distruzione delle Indie, che si può trovare anche in italiano in due edizioni, no? Una dagli Oscar Mondadori e gli altri della cultura della pace, appunto di padre Balducci. Allora, no, in questo breve testo, ecco, mi pare che si possa, ripeto, leggendo... esplicitando il non detto da Bartolomé e a mio avviso esplicitando il non detto che è però il presupposto anche di molti altri missionari, mi pare che si possa disegnare, ecco, rapidissimamente, no, questo profilo. Accanto allo sgomento di fronte alle uccisioni dei corpi degli indios, Bartolomé è sensibilissimo anche alla dimensione delle loro anime che si perdono. Per soddisfare la loro avidità, gli spagnoli espongono questo loro prossimo ogni giorno al pericolo non soltanto di morte temporale, ma anche di dannazione dell'anima, che muoiono tutti senza fede e senza sacramenti. Sono almeno 7-8 i passi in cui questa idea, i passi di questo breve testo, in cui questa idea ritorna. Secondo, anche qui vorrei leggere prima almeno un testo, si riferisce a una terra, non ricordo quale, no? Una regione, se quella terra fosse stata ricca d'oro, per cavarlo dalle miniere, il tale conquistador non avrebbe esitato a farvi perire fino all'ultimo dei suoi abitanti, ma non lo era. Ricca d'oro, ed egli risorse allora di cavare oro dai corpi degli indiani, di quelle creature per le quali è morto Gesù Cristo. Poi ancora, quest'uomo di perdizione si era un giorno lodato e vantato svergognatamente di star facendo tutto quello che era nelle sue forze per ingravidare quante più donne indiane poteva, onde cavarne un maggior prezzo vendendole pregne. E poi egli commenta, si veda di qui, in che pregio gli spagnoli tengano quelle genti, create a immagine e somiglianza di Dio e redente a prezzo del suo sangue. E finalmente gli spagnoli che vanno nelle Indie, agitati dalla brama dell'oro e che hanno venduto e continuano ancora oggi a vendere Gesù Cristo. Ecco, allora io dicevo, mi pare che si possa leggere tra le righe, ma di più, cioè proprio tematizzare quello che qui non era suo scopo fare, ecco, quella contrapposizione di queste genti, queste creature, questi corpi redenti, cioè comprati col prezzo del riscatto. E il prezzo del riscatto è il sangue di Cristo. E gli spagnoli le vendono, per cui assieme, ripeto, alla passione, alla compassione, assieme allo sdegno etico c'è l'orrore teologico, direi, di questo sacrilegio. No. Qui si vende ciò che Cristo ha comprato col suo sangue. Dietro c'è, per esempio, Prima Petri, no? Ma terzo, ecco, non dice come normalmente la tradizione dice, no? Ecco, queste anime comprate col sangue di Cristo, no? Dice queste genti, queste creature, questi corpi. Uno allora potrebbe dire, no, la cosa qui non funziona perché Cristo ha comprato le anime. Ecco, no, a me pare che, e qui c'è uno dei punti, a mio avviso, più profondi, no? Ecco, di teologia di questi missionari, in ogni caso di Bartolomé Las Casas, no? Che il sangue di Cristo, col suo prezzo immenso, costituisce o concostituisce, assieme alla creazione, all'atto creatore, concostituisce in quanto atto redentore la dignità, il valore infinito di che cosa? Non solo di quelle anime, ma di quegli indios. Cosicché qui è proprio, direi, l'orizzonte redentivo e quindi l'orizzonte di salvezza e di evangelizzazione che sta alla base della difesa dei diritti degli indios da parte di Bartolomé Las Casas. No? Egli non difende solo dei diritti umani, anticipando di 2 secoli e mezzo, no, la dichiarazione dei diritti dell'uomo, no? Egli difende dei diritti di coloro, ecco, che valgono il prezzo del sangue di Cristo. Ecco, qui mi sembra ci sia un aggancio, ripeto, molto profondo tra dimensione di creazione, che è quella su cui insiste De Vitoria, e dimensione di salvezza e di redenzione. Discorso di diritto incarnazionale, i diritti degli indios a essere veri domini, ecco, a essere rispettati nella loro dignità, nella loro libertà, e però sul fondamento di una visione cristologica della loro, ecco, di questa loro stessa dignità. Terzo punto, l'evangelizzazione in senso più specifico. Ma io qui ho messo sotto, fondamentalmente sotto 3 voci, direi, la problematica dell'evangelizzazione. La prima è che i missionari sono tutti convinti, naturalmente queste affermazioni massive, massicce, no, tutti, vuol dire la maggior parte, eccetera, sono convinti che per la salvezza è necessaria la fede esplicita in Gesù Cristo. La scoperta del nuovo mondo, appunto, è la constatazione che per 1500 anni queste popolazioni sono state tenute all'oscuro su Gesù, sulla sua salvezza, suscita il problema, appunto, della. E allora che cosa ha fatto Dio di loro? Ma allora è davvero necessario credere in Gesù Cristo? Eccetera, eccetera. C'è un non ricchissimo, ma comunque un discreto ventaglio di posizioni, da quelli che dicono basta la fede implicita, a quelli che dicono ci vuole la fede esplicita ma solo per portare a compimento una conoscenza salvifica che in qualche modo già, eccetera, eccetera, eccetera. Sono quelle posizioni che sono state studiate, riassunte, per quanto ne so io, ho potuto vedere la sintesi che ne fa il classico Caperan negli anni 20 o 30, no? Che studia proprio questo problema un po' in tutta la storia della tradizione cristiana, la salvezza dei non fedeli, dei non credenti. E io non è nostro compito qui, no? Quello che è nostro compito però è indicare dunque questo, che i missionari scelgono la tesi massimalista, e cioè è necessaria la fede esplicita. Allora c'è una differenza tra i teologi residenti in Spagna, che vanno progressivamente confluendo in quella posizione che viene poi sistemata da Suarez e che è verso invece in direzione della sufficienza di una fede implicita, mentre i missionari, tolto forse l'ultimo Bartolomeo Las Casas e eventuali altre eccezioni, no, sono rigorosi nel sostenere la tesi della fede esplicita e nel suo De procuranda indorum salute, il teorico dell'azione missionaria, il gesuita José Acosta, dedica molte pagine proprio a impugnare le posizioni dei suoi teologi connazionali con molta sicurezza, a volte quasi con sprezzo verso queste posizioni, diciamo, l'assiste, no? Dunque è necessaria la fede esplicita. Dall'altra parte però, ecco, la fede deve essere libera. E qui direi che bisogna intendersi bene, no, su questa libertà della fede. Qualcuno dice, ecco, dunque c'è il rispetto della coscienza dell'indio. A me non sembra proprio esatto, è il caso in cui cerco di spaccare, no, un capellino. No? A me non sembra esatto, non c'è un'anticipazione della libertà di coscienza. Della libertà religiosa come diritto della coscienza, quale né di fronte allo Stato e neanche di fronte alla Chiesa, quindi della coscienza come luogo, come appello ultimo alla verità esistenziale, ecco, no? Che anche la Chiesa, che pure è convinta di avere la pienezza di quella verità, deve riconoscere. Mi pare non è questa la tematica. Quindi una libertà in senso moderno del termine, intesa come diritto della coscienza. La tematica invece è quella classica della libertà nel senso metafisico, della capacità di scelta. Allora la fede è libera nel senso che una fede coatta non è più se stessa, in base al principio che metus, dice lo stesso, e poi riprendono tutti, ma all'inizio c'è Aristotele, all'inizio di questa considerazione, difatti il De Vitoria cita Aristotele, comunque non importa adesso ritrovare la citazione esatta, no, ecco, metus minuit voluntarietatem, o voluntatem actus. Allora la libertà della fede come condizione interna all'autenticità della fede stessa, al darsi della fede stessa, in quanto atto anche di volontà. Risultato, se è necessario che questi popoli credano esplicitamente in Gesù Cristo, però che credano liberamente e non per coazione, ecco, allora la vera necessità impellente è che vengano messi davanti alla proposta a cui liberamente aderire, cioè quella della predicazione. Allora ecco, la necessità della fede si risolve in necessità della predicazione, in imperativo categorico della predicazione, così come è stato fatto nel vecchio mondo. Non è che tutto il vecchio mondo sia cristiano, anzi, il vecchio mondo è fatto di cristiani, di ebrei e di musulmani. Però gli ebrei e i musulmani sono coloro che, raggiunti dalla predicazione cristiana, l'hanno rifiutata. Allora, non affari loro, ma insomma, sì, affari loro, cioè l'hanno rifiutata, no? Ma essi sono stati raggiunti dalla predicazione cristiana. Ecco, anche costoro devono essere raggiunti. Se anch'essi, o coloro che anche tra di essi rifiuteranno la fede cristiana, saranno come gli ebrei e come i musulmani, saranno colpevoli di questo rifiuto e decideranno così in negativo del proprio destino eterno. Ho aggiunto proprio, ma qui mi limito davvero a un accenno, i contenuti della predicazione. Penso che ci sarà spazio per questo, soprattutto nell'esame dei catechismi. Io però non resisto alla tentazione, non resisto alla tentazione di leggere, visto che oggi si dice spesso, no, è stato predicato un cristianesimo occidentale, eccetera, eccetera, credo che anche su queste affermazioni si dovrebbe a volte essere forse più cauti, così. Non resisto alla tentazione di leggere mezza pagina di quello che è stato il concilio, diciamo, l'evento ecclesiale più importante probabilmente di tutta la colonia, cioè il terzo concilio di Lima, 1582-83, ecco, in uno dei suoi decreti che riguarda appunto i contenuti della evangelizzazione, dice che bisogna insegnare agli indios, primo, che c'è un solo Dio creatore di tutte le cose, che dà il premio di vita eterna a coloro che lo servono e castiga con eterni tormenti nell'altra vita i cattivi che lo offendono in questa. Secondo, che questo Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone e un solo Dio vero, e che fuori di questo Dio non c'è altro Dio vero. Quindi quello che adorano le altre genti, ciò che le altre genti adorano al di fuori dei cristiani, non sono dei ma demoni o inganni dell'uomo. Terzo, che il Figlio di Dio, per restaurare la salvezza degli uomini, si è fatto uomo dalla Vergine Maria, ha patito per noi, è morto, poi è risorto e ora regna per sempre. E questi è Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Ultimo, che nessuno si può salvare se non credendo in Gesù Cristo, pentendosi dei peccati che ha commesso, ricevendo i sacramenti, cioè il battesimo se è infedele e la confessione se è caduto in peccato mortale dopo il battesimo, e al tempo stesso determinando di osservare quello che Dio e la Santa Chiesa ci comandano, e che tutto si riassume nell'amare Dio su tutte le cose e il prossimo come se stesso. Sui metodi non dico, cioè dico davvero una sola cosina, c'è il libro bellissimo, Una vera miniera, di un certo padre francescano Pedro Borges, Metodos Missionales de Evangelización, mi pare, no? Siglo XVI, è uno studio molto accurato, ripeto, è ricchissimo di tutti gli aspetti della metodologia in senso stretto e in senso ampio delle missioni in America Latina nel Cinquecento. Io mi limito a raccogliere, ecco, uno dei temi di questo libro e a documentarlo attraverso un breve testo di quel gesuita Acosta, no? Teorico della missione, no? Di cui ho già detto, ed è perché appunto è un tema che riprende il motivo del connubio tra difesa della diritti degli indios, promozione dell'indio ed evangelizzazione. Direi, ecco, un tema, e potrebbe essere, no? Testimonianza della carità ed evangelizzazione. Allora, questo testo, che si trova sempre nel De Procurando Indorum Salute, affronta a un certo punto la obiezione, dice, ma è inutile cercare di predicare a questa gente. Tra le varie ragioni che dimostrano questa inutilità è che parlano lingue non solo così diverse dalla nostra, ma tra di loro così differenziate, che come si fa a imparare tutte queste lingue? Gli apostoli avevano il dono delle lingue, noi no. E allora Acosta risponde, la predicazione dell'Evangelo è continuata anche nei secoli successivi, quando è cessato il dono delle lingue, ma ha operato appassionatamente l'amore, il più grande di tutti i doni, così che la lacuna sul piano del dono diventasse incremento del merito. È certo che chi è venuto dopo non è meno fortunato dei predecessori. Infatti, come Cristo disse a Tommaso che voleva ricavare la fede dalla vista e dal tatto, Cristo disse, beati coloro che hanno creduto senza aver veduto, così potremmo chiamare beati coloro che non hanno ricevuto il dono delle lingue e tuttavia hanno predicato. Quarto, l'inculturazione, dentro del problema dell'evangelizzazione, di cui abbiamo dichiarato la coscienza di necessità, di libertà e accennato i contenuti così, ecco, il problema più specifico di quella che oggi siamo soliti chiamare la inculturazione. Ma anche qui che cosa dire? Io direi intanto che mi sembra davvero troppo massiccio, anzi ampiamente contestabile quell'affermazione secondo cui predicare il Vangelo e ispanizzare, europeizzare gli indios sarebbe stata la stessa cosa. Direi che è ampiamente contestabile da più di un punto di vista questa affermazione, intanto proprio dal punto di vista delle lingue. Ecco, delle lingue. In realtà i missionari si sono imparate non soltanto le principali lingue, il Nahuatl in Messico, Quechua e Aymara nella zona andina, ma anche alcune le lingue minori. Hanno promosso queste lingue da lingue soltanto orali o semiscritte, no, con disegni, eccetera, a lingue letterarie, hanno scritto grammatiche, hanno scritto dizionari che vengono ristampati oggi, come ancora quelli che con qualche aggiornamento costituiscono il corpo più organico per imparare, eccetera, eccetera, hanno scritto opere, hanno tradotto parti della Bibbia, hanno scritto vite di santi e via dicendo. Io credo che oggi da questo punto di vista la nuova evangelizzazione è enormemente all'indietro rispetto a quello che era la posizione dei missionari nel Cinquecento. Se qualcuno dei colleghi mi contesterà, bene, sarò ben contento di pensare che anche oggi invece le cose vanno meglio. Secondo la cultura, il rapporto cristianesimo-cultura, anche qui bisognerebbe distinguere che cosa si intende per cultura. C'è per esempio tutta una dimensione su cui insistono molto, la cosiddetta polifia. Ci ho messo un sacco di tempo a capire che cos'era. Poi, se non sbaglio, credo di aver capito un po' che quello che noi chiamiamo, no, via, un po' di civiltà, cioè qualcosa a metà tra il vivere proprio nelle città, civitas, e il vivere educatamente, l'avere condizioni di vita anche oggettivamente umane, il non vivere ammassati, con la promiscuità, eccetera, eccetera, no? Bene, tutto questo sì, tutto questo i missionari lo volevano per gli indios, tutto questo mi pare, certo, e lo vedevano anche in qualche modo specchiato nelle belle case degli spagnoli e via dicendo, ma tutto questo lo vogliamo anche noi, in fondo, non mi pare il caso di parlare di ispanizzazione. No? Più serio è il discorso sul piano etico, e qui indubbiamente la posizione dei missionari nei confronti di sodomia, sacrifici umani, cannibalismo, incesto, era molto decisa, ma anche qui si può parlare di ispanizzazione, mi pare che il problema sia un po' diverso. Per quanto poi riguarda i rapporti invece, terzo elemento della cultura, la struttura politica della polis, cioè l'organizzazione del convivere, allora le esperienze sono state davvero molteplici e vanno dall'approvazione in solido e senza il minimo dubbio di tutte le istituzioni spagnole, al tentativo invece di creare istituzioni che salvaguardino al massimo quelle indie, ecco, e vabbè, il caso più noto è quello delle riduzioni dei gesuiti, ma non è l'unico. Ma il problema che interessa di più l'evangelizzazione è il rapporto tra Vangelo e non tanto lingua o cultura soltanto, ma il problema del rapporto con le religioni indigene. Allora, io ho messo qui appunto la demonizzazione, poi sul mio foglio l'ho messa tra virgolette, per un paradossale fenomeno che certi termini, per essere usati in senso proprio, vanno messi tra virgolette, perché il senso che è diventato quello usuale è quello traslato, no? Per cui noi diciamo demonizzazione per dire qualche cosa che viene deprecato, eccetera, eccetera, qui invece no, va proprio a dire demonizzazione. E cioè come abbiamo anche sentito per accenno dal documento del Terzo Concilio di Lima, le religioni indigene sono state ampiamente, quasi universalmente considerate frutti del demonio, inganni del demonio. Direi anche qui si potrebbe distinguere allora in quelle manifestazioni che erano del tutto abnormi, ecco per esempio i sacrifici umani degli aztechi, allora era evidente che cose così non può che suggerirle il demonio. In quelle manifestazioni invece che avevano qualche affinità, qualche somiglianza col cristianesimo, è evidente che è il demonio perché vuol scimmiottare Dio. Quindi per dritto o per rovescio, ecco, la demonizzazione delle religioni indigene, ripeto, è stato un po' la piattaforma comune dei missionari. Questo va visto però, ecco, direi, farei due osservazioni, non le chiamerò attenuanti, le chiamerò di chiarificazione. La prima è che, ecco, che dire che le religioni erano frutto dell'inganno demoniaco significava, rappresentava anche un attenuante nei confronti degli indios. E cioè, non è vostra colpa se voi siete rimasti impagnati, no, irretiti dentro queste religioni. Siete degli ingannati. Non è vostra colpa. La vostra colpa comincia quando, di fronte alla proposta del Vangelo, della parola di salvezza, voi la rifiutaste. Secondo, bah, permettetemi anche questo, ecco, io Bastian Contrario, allora lì quando tutti, oggi mi sento tanto di difendere i missionari, io che non ho mai avuto particolare, no, simpatia, anche perché non mi piace molto predicare, quando parlo agli evangelizzatori dico evangelizzate di meno, eccetera, no, ma, però mi sento di questi missionari. Allora, mi sembra di dover dire, ecco, che bisogna stare attenti anche al fascino e al suo contrario, no? E all'orrore delle parole, no? Dire che le religioni degli indigeni erano prodotto del demonio che ingannava le coscienze dei poveri indiani è ridire quello che tre secoli dopo Marx dirà a proposito di tutte le religioni, che sono falsa coscienza. Il concetto marxiano di falsa coscienza, a mio avviso, è una traduzione secolarizzata del concetto di parto demoniaco dei missionari. Ora, noi, o molti di noi, tra cui anche il sottoscritto, hanno cercato di capire, sì, ha torto Marx, però in fondo, ecco, lui coglie la dimensione di verità, la dimensione di alienazione che c'è in molti fenomeni religiosi, ecco, mi pare, insomma, che non avere subito un grande scandalo quando si sente missionari che tre secoli prima, no, parlano di religioni in questo senso demoniaco, mi pare sia un necessario, diciamo, dovere di distanza storica. Bene, lascio stare quelle altre forme di parziale riconoscimento delle religioni, per esempio, perché mi sembrano tutto sommato non decisive, per esempio quella che ha voluto vedere non tanto i semina verbi, cosa che forse si trova solo nell'ultimo Bartolomeo Las Casas, no? Quanto invece i resti del verbo, cioè i resti di una predicazione apostolica, no? Per esempio in Perù, no? Un San Tommaso sarebbe arrivato a predicare, ecco, e poi resterebbero appunto queste un'eco lontana di questa predicazione. Ma ripeto, non sono state, a quanto ne so, delle posizioni davvero determinanti nella evangelizzazione. Invece, ecco, di fronte alla demonizzazione, la risposta qual è stata? Allora, bene, bisogna estirpare, sradicare queste religioni, queste chiamate idolatrie. La estirpazione della idolatria è stata uno dei capitoli certamente molto ampi della missione evangelizzatrice. In qualche modo, ecco, no, bisogna strappare l'erba cattiva prima di poter deporre il nuovo seme. Anche qui io farei rapidamente alcune distinzioni. Anzitutto, questa estirpazione dell'idolatria, prendo qui idolatria nell'accezione normalmente generica in cui veniva assunta e che andava dall'adorazione delle forze naturali, il sole, la terra, i monti, all'adorazione di oggetti, di legno o di sasso, eccetera. Allora, due tappe. La più facile è stata quella di cancellare le religioni ufficiali, rispettivamente la religione azteca in Messico e la religione incaica in Perù. Questo è stato relativamente facile. Molto più difficile invece è stato, e si sono accorti presto i missionari, e dunque molto più difficile era estirpare, sradicare quella sedimentazione religiosa che non aveva i 90 o 100 anni della presenza incaica e i 200 o 300 anni della presenza azteca, no? Ma che aveva forse millenni, no? La religione, diciamo, popolare, ecco, no? La religione andina. La religione abbarbicata all'anima andina, e che non era la religione incaica del sole, del Inti, ma invece la religione della Pachamama, della madre terra. Un'altra distinzione, ecco, i due metodi usati in questa estirpazione sono stati inizialmente il far piazza pulita, direi materialmente, ecco, abbattendo templi, snidando luoghi e oggetti religiosi per cancellarli, eccetera. In un secondo momento c'è stata la riflessione, richiamandosi ad Agostino, che non ha nessun senso abbattere gli idoli se poi questi restano piantati dentro il cuore degli idolatri. Allora bisogna strappare l'idolo dal cuore dell'idolatra, cioè convincerlo della falsità di questo idolo, di questa sua credenza, sia, diciamo, smantellandola attraverso delle considerazioni di ordine narrativo, razionale, sia predicando il positivo del Vangelo. Allora, ecco, poi saranno loro stessi a distruggere i loro idoli e lo faranno consapevolmente e volontariamente. Finalmente bisogna anche distinguere, sempre a proposito della estirpazione, bisogna anche distinguere l'atteggiamento tenuto con gli indios ancora pagani, ancora idolatri, dove almeno in linea di principio, appunto, non è stata imposta la fede e quindi neppure, dico in linea di principio, l'abbandono dei loro idoli. E invece l'atteggiamento, il comportamento usato soprattutto in Perù nella prima metà del 600, quando con popolazioni che già da diversi decenni si presumeva fossero cristiane, si scoprì che invece di nascosto continuavano a celebrare i loro culti andini, e allora ci fu, ecco, una seconda estirpazione dell'idolatria, e stavolta anche con l'intervento del braccio secolare, in base al principio appunto che erano cristiani e cittadini spagnoli. Un ultimo punto, certamente non faremo tempo a parlare di ultimo, teologia della liberazione e in nuova evangelizzazione, ma qualcosa sul quinto punto. È un punto che cercherebbe di fare un momento, di gettare il ponte tra, ecco, il risultato della prima evangelizzazione, 500 o, se vogliamo, secondo alcuni studiosi, no, dell'evangelizzazione in Perù, attorno alla metà del 600, cioè dopo la seconda estirpazione dell'idolatria, ecco, oramai il Perù è cristianizzato. E lo stesso è anche prima, no, per il Messico e per altre parti. Naturalmente è cristianizzato ed ha un cristianesimo che noi non possiamo misurare sul nostro, ha un cristianesimo per il quale molti adottano il termine di sincretismo, e almeno su questo io non vorrei fare spaccare il capello in quattro, perché proprio mi pare invece il caso di lasciare il termine così nella sua vaghezza. Farò una sola distinzione, ci arrivo subito. Dunque, dicevo, dal punto in cui era arrivata l'evangelizziamo così, la conclusione del primo ciclo, il ciclo costituente della evangelizzazione, costituente una comunità di cristiani indigeni, no? All'oggi, ecco. Beh, lasciare questo ponte vuol dire presupporre, dare per scontata una sostanziale continuità. Io su questo non posso mettere le mani sul fuoco, penso che questo potrebbe, interventi degli specialisti potranno darci indicazioni molto più precise. Allora io butto lì, ecco, l'idea che probabilmente il cristianesimo degli indios oggi è rimasto sostanzialmente lo stesso di quello degli indios dopo appunto la prima evangelizzazione costituente, nel senso che in positivo non c'è poi mai stata una nuova evangelizzazione e in negativo non c'è neanche stato nei loro confronti un processo di secolarizzazione. Ecco, allora almeno su queste due grandi e approssimative coordinate, ecco, dico, do per scontato, no? Parto da questa ipotesi, che potrà essere però evidentemente contestata fattualmente. Ecco, detto questo, dico però appunto che cos'è questo sincretismo? Beh, intanto per qualcuno sincretismo dice ha una valenza positiva, è un diciamo connubio di cristianesimo e di indianità ben riuscito. Per altri invece, ed è questo che sono questi che adesso ci interessano di più, no, è un connubio non riuscito. Sincretismo ha allora l'accezione negativa di una contaminazione. Anche qui però, e qui diciamo vado, creo due tipi, quindi in qualche modo costruisco ecco, una tipologia con due figure contrastanti che forza un po' i termini, diciamo, le presentazioni reali degli autori. Ma come sempre ci ha insegnato Max Weber, no, i tipi ideali servono poi a capire, a individuare, a leggere, no, testi e situazioni che non sono così chiare. Allora, c'è chi dice il sincretismo non è riuscito, o se vogliamo c'è un sincretismo, ma nel senso deteriore del termine, perché il cristianesimo si è calato sull'anima india, e questo vale soprattutto sull'anima andina, ma vi è rimasto così, giustapposto e sovrapposto. L'anima andina è rimasta tale, è rimasta integralmente l'anima pagana che sente il divino presente nella terra, nei monti, eccetera. Il cristianesimo, come dice il grande scrittore marxista peruviano Mariátegui, no, i missionari non sono riusciti a evangelizzare l'abitante delle Ande, sono riusciti a incantarlo con lo splendore del rito cattolico. Ma l'anima è rimasta l'anima pagana. Altri invece dicono sì, il sincretismo va inteso in senso deteriore, l'evangelizzazione non è riuscita, è fallita, ma proprio per la ragione contraria, ripeto, estremizzo il contrasto. E cioè perché quel cristianesimo è entrato nell'anima andina ma violentando, è entrata destrutturandola, è entrata deculturizzandola, togliendole l'identità nel vano tentativo di costruire invece una nuova identità, che non poteva essere costruita perché era il cristianesimo occidentalizzato. Direi da tutte e due le parti, in qualche modo, è in questione ecco, questo cristianesimo occidentale. Ma da una parte, beh, dicevo Mariátegui, ma poi ho presente anche quello che per me è un bellissimo testo, raccolta di esperienze di un missionario canadese in Bolivia, Monast è scritto, tradotto in parte anche da Jakabuk, e il quale dice, sì certo, noi non, qui non c'è stata vera evangelizzazione, perché, ecco però, sembra dire, no? Perché il cristianesimo che qui è arrivato era il cristianesimo popolare, spagnolo, già contaminato, che manteneva dentro di sé ancora elementi pagani e che qui ecco, si è congiunto agli elementi pagani esistenti, per cui quella che ufficialmente è la religione cattolica, no? Gli Aymara, parla degli Aymara in Bolivia, vogliono essere muy católicos e romanos, quella che ufficialmente è la religione cattolica romana, ecco, no, in realtà è una, non per malizia, non per occultamento voluto, ma così una spontanea mimetizzazione, ecco, dei culti e delle credenze, dei costumi andini, sotto la fattispecie, le forme, le figure dei santi, di madonne, eccetera. Allora, no, a me sembra che per il discorso sulla nuova evangelizzazione, questa discriminante che allora volutamente sto forzando, no, sia determinante, perché da una parte Non è un caso che proprio questo missionario dica, no, qui bisogna ripredicare il Vangelo, e non parla di nuova evangelizzazione, perché scriveva più di 20 anni fa, no, quindi la dizione non circolava ancora. Bisogna ripredicare il Vangelo, ma in maniera, ecco, più autenticamente biblica. E parla molto positivamente, anche se con riserve, ma in sostanza in maniera molto positiva, della presenza dei protestanti, delle sette protestanti, no? Come di quelle che, ecco, riescono a sfrondare, no? L'Evangelo, consegnando all'indio, ecco, l'unicità di Gesù Cristo come Salvatore, rimettendo al loro posto sante e madonne, elevando i costumi indio, facendo cadere, dando la forza di abbandonare, che so io, le pratiche in parte anche cultuali di ubriachezza, di ebbrezza, eccetera, eccetera. Allora, no, qui da una parte c'è un, direi, ricristianizzare o rievangelizzare sembra andare più verso il purificare, no, in direzione dell'annuncio biblico puro, di cui i protestanti sono migliori testimoni dei cattolici. Dall'altra invece, visto per fare anche qui un nome, ma ripeto, io estremizzo la sua posizione, quella per esempio di Leonardo Boff, per il quale il male, il vizio fondamentale della mancata evangelizzazione è dunque che la parola cosiddetta cristiana è entrata nelle coscienze, ma le ha appunto lacerate, ha tolto loro l'identità, perché era il cristianesimo europeizzato, razionalista, no, dell'Occidente, mentre le espressioni più autentiche del cristianesimo nell'America Latina sono quelle del cristianesimo popolare. L'esempio che egli poi esamina brevemente, ma tra l'altro con molta grazia, nel suo libretto della Cittadella Editrice, secondo me la parte migliore appunto del libretto, questo esame interessante verso la fine proprio della Madonna di Guadalupe. Allora, ecco, a me sembra, e vorrei concludere con questo, a me sembra che oggi il problema del rapporto col cristianesimo occidentale continui ad avere in alcuni settori una sua valenza reale, purché poi si definisca meglio che occidentale. Supponiamo, se si tratta dell'Eucaristia, che proprio vada celebrata col pane e col vino, lì dove magari il pane e il vino non sono di circolazione comune, questo non è un problema del cristianesimo occidentale, ma semmai mediterraneo. Allora, ecco. Altri casi invece, ecco, quelli dell'etica, non so se sia anche qui un problema di cristianesimo occidentale o invece di un quadro etico più generale, per esempio la proibizione dell'incesto, che secondo Levi-Strauss sarebbe l'unica legge morale universale. Ecco, andrebbe disarticolata questa espressione cristianesimo occidentale e vista nei suoi vari aspetti di dottrina, di culto, di etica e di disciplina ecclesiastica, no? L'ammissione degli indios al sacerdozio, eccetera, eccetera. A me pare però dunque che il problema di fondo oggi non sia più tanto quello del cristianesimo occidentalizzato, ma sia quello di ripensare il rapporto tra il cristianesimo biblico, antico e nuovo testamento, come quello di un Dio personale, di un Dio libertà, di un Dio creatore, e dall'altra parte invece di religioni dove sembra che, ecco, uso questo termine, sembra che fenomenologicamente lo spazio rivelativo ultimo del sacro, del divino, è la natura con le sue forze, quello che chiamiamo, appunto, il paganesimo, ma lasciamo stare il termine, no? A me sembra dunque che la vera discriminante sia la possibilità di connessione tra una religione del Dio come persona e libertà e una religione del Dio come insieme di come personificazione di una o più forze della natura. Allora, ecco, tra queste due figure del divino C'è un insanabile contrasto, oppure si può considerare la seconda un compimento della prima? A me pare dunque che il problema di fondo, il problema almeno a livello teorico, principale sia questo. E io mi fermerei qui perché il tempo se n'è già andato. Grazie. Io ringrazio Armido Rizzi perché ha dato il tono al nostro convegno, che voleva essere veramente un convegno di riflessione teologica. Lo ringrazio perché non ha semplificato la complessità, ma esemplarmente ha dimostrato che bisogna fondarsi su fatti, informazioni, letture, l'ha fatto, e su una riflessione profonda ma serenamente critica, dove la vera simpatia è offrire criteri di lettura, colti anche dalla tradizione culturale nostra, ma comunque criteri che, ripeto, non semplificano, ma aiutano ad entrare nella complessità e a verificarne serenamente, non tanto per una scelta di mediazione fideistica, automatica, volontaristica, tra il mezzo termine tra due radicalismi, ma per rendersi capaci di capire un fenomeno nella sua grandezza, nella sua novità. Ci ha lasciato solo 20 minuti per la possibilità di un dibattito, allora adoperiamo questi 20 minuti con interventi brevissimi, non relazioni, ti raccomando, padre Grasso. È difficile essere breve. Comunque, parlo per primo perché sono un teologo ianoensis, sono genovese da Milano. Sono lieto e dico tutta la mia gioia per questo incontro e intanto per la prima relazione che ci permetterà di invitare nel prossimo autunno Armido a Genova a dire qualcosa in un ambito molto importante di cui Genova è priva, perché a Genova non ci sono teologi da 50 anni. Tu hai detto che la Spagna è realtà ambigua e hai parlato di un paese. La Spagna, ai tempi di Colombo e fino a tutto il 600, non è un paese. Sono 4-5, bisogna tenerlo presente per tante cose. È anche Portogallo. Il Portogallo è la stessa cosa della Spagna, se si parla di Spagna come paese. Non lo è né il Portogallo né la Spagna. Secondo, importantissimo il riferimento che hai fatto, citando Bartolomeo de las Casas, che fa riferimento a questi corpi, non all'anima. È San Tommaso. Fa riferimento all'anima tutta la corrente nominalista, di cui bisogna molto ricordarsi, perché, che ne dica Boff, sbagliando totalmente, non è il razionalismo. Poi lui va a studiare tra l'altro in Germania, doveva stare lì, poi un italiano veneto, non c'entra niente con l'America Latina, Boff, e col Brasile. Il problema è il nominalismo. Il fondamento, dice tu in un certo momento, è cristologico. No, è teologico. Dalla Trinità alla Trinità. C'è discussione tra esplicitisti e implicitisti, Caperon, eccetera. Non si ricorda nessuno di prima seconda 89-6, si va di andare a leggere, ma perché non se ne ricorda? Per motivi politici. Cioè, era un motivo politico, quindi quello non è un motivo teologico, a mio dire. La fede deve essere libera. Anche qui, tutto un nominalismo che inficia la concezione dell'obbedienza. Tommaso dice, citando Seneca, mens sui iuris est, cioè la realtà umana, che si formalizza nella mens, ma è un corpo, eh? Ancora ho finito. Finito? Quasi. Tu hai detto bene sulla Politeia, ma tieni presente che per Tommaso solo chi vive in città è un uomo. Non è la Politeia, è polizia. Polizia, è la non vita, è, no, no, ma polizia, è diciamo polizia, eccetera. E hai detto, hai parlato della città, è polizia, giusto? E hai detto della città. Per Tommaso solo chi vive in città è un uomo. E là avevano questo grosso problema. E Carlo V dà delle indicazioni urbanisticamente importantissime, tutte basate sul De Regimine Principe. Sia sulla parte del De Regimine, che è propriamente di Tommaso, sia sulle altre parti, con grandi lapidi in tutte le grandi città, ci sono queste indicazioni urbanistiche, perché l'uomo può essere uomo solo se vive in città, ed è verissimo contro tutto il filone nominalista benedettino del XIV secolo, vedi quello che ne scrive, da malandrino con me, ma ne scrive Umberto Eco. Ancora chiudo sulla religione. Rivediamoci un po' la terzia 61.1, exercitia corporalia, che poi sono la stessa cosa dell'exercizia spirituale di Sant'Ignazio, perché se ci sono degli exercizia corporalia, e tu me lo puoi insegnare, sono il mese ignaziano, che fortunatamente è un esercizio del corpo. Fai meditazione, ti inginocchi, vai a messa, sei in silenzio, tutte cose per fortuna corporee, che ha niente a che fare con lo spirituale. Non c'è niente di indù negli esercizi ignaziani, nel mese ignaziano. È qualcosa di tutto corporeo. Purtroppo hanno vinto ancora una volta i nominalisti. I francescani erano più dei domenicani. I francescani erano di più dei domenicani. E poi? E posso fare una battuta? Una battuta? Beh, vuoi andare a fare una battuta? No. Volevo fare una battuta. Grasso, mi permette di farti una battuta? No. Che questo tuo ricondurre tutto da una parte al tomismo il buono, dall'altra al nominalismo francescano il male, mi sembra uguale a quelle letture che ricondotto tutto all'Europa cattivo, al cristianesimo cattivo, eccetera. Cioè, c'è una specie di... No, come puoi dedurre... Vabbè, comunque voglio dire che io non mi riconosco in questo tipo, non mi riconosco formalmente, stilisticamente, metodologicamente, ermeneuticamente, di stile ermeneutico, in un tipo di lettura appunto che riduce tutto. Quello che ho cercato di far vedere, che non è riconducibile, no, riduce tutto a una sola cosa. A parte che poi, che io sono molto più, diciamo, mi sento in qualche modo nominalista, ma questo è un altro discorso, no. Ma ridurre tutto, no, i francescani dicevano, a nominalismo mi sembra un po'. Sì, c'era... Forse. Ah, forse. Ecco, sono stimoli tuoi, non le reduzioni, sì. Non reduzioni. Sì. Essendo un ex missionario e un attuale parroco di campagna o di montagna, evidentemente non farò terminologia nozionisti come l'ha fatto il padre Grasso, ma ecco, parte da uno degli ultimi punti di rievangelizzazione. Voi sapete che oggi la Chiesa, il Papa, non parla che di questo, è per i popoli, le vecchie cristianità, è un po' il tema che ci ha fornito Lutero, Ecclesia semper reformanda, e nel Vangelo è detto che quando ritornerà il figlio dell'uomo non si sa se troverà ancora della fede. Quindi vedete, stiamo attenti a questo fatto di rievangelizzare, ecco, perché quella gente massicciamente è stata portata alla fede. Ricordiamoci tutta la conversione piramidale dei barbari. I sassoni sono stati convertiti a fil di spada da Carlo Magno, nonostante i rimproveri di Alcuino. Ma andiamo anche più indietro, i nostri ebrei, i nostri antenati, i fratelli maggiori, loro hanno convertito anche i loro nemici filistei con gli distruzioni e anatematismi. Non dimentichiamo la percezione storica, che nell'antichità non c'era il concetto di libertà, di individualismo che noi abbiamo acquisito o rubacchiato o travisato. Quindi ecco perché quando si parla di questi popoli che un po' massicciamente, diciamolo così, in maniera quasi coloniale, che pure c'è da precisare il termine, perché vedete, come ha detto bene il padre cioè Don Armido Rizzi, non essendo missionario, ha rispetto dei missionari. Vedete, oggi c'è stata un'ondata, adesso si è un po' accalmato, di una quasi un'ondata di disprezzo, di criminalizzazione dei missionari. I missionari sono andati per vocazione, hanno pagato di persona, hanno fatto degli sbagli, come l'ha fatto San Francesco Saveri, come l'avranno fatto gli apostoli, eccetera, però avevano il senso del rispetto dell'uomo, ecco. Per cui, se c'è stato un massimalista, e i profeti sono stati tutti così, ebbene, è stata sempre nella speranza che lo Spirito Santo avrebbe continuato il resto. Per cui, se le popolazioni amerindie sono restate un po' così, superficialmente, guardate che le nostre popolazioni italiane non è che di cristianesimo ne mangino troppo, basta vedere tutto lo scandalo di oggi, in tutte le zone. Pensate, quando io stiamo a Madagascar, il Vescovo ci raccomandava: per carità, non parlate degli scandali che succedono in Europa, perché la gente pensa che noi vecchi cristiani siamo tutti uno stinchi di santi. Qualche altro? No? Roger, dopo. Solo una piccola aggiunta, se è il caso di farla o se ha senso. È stato seguito, mi pare, proprio il filone spirituale e l'animus, vero, con cui è stata condotta l'operazione, e senza dubbio è quella più importante. Credo che occorra però anche tenere presente un po' del quadro istituzionale che proprio la Spagna portava nel organizzare la Chiesa istituzione, coi suoi quadri, anche col finanziamento, la determinazione dei diritti diocesani, con le competenze di chi comanda il clero e così via, no? Che trasferisce semplicemente nelle terre nuove quel regime del patronato, no? Che era stato esercitato e applicato in pieno nel Regno di Granada riconquistato, e che viene semplicemente trasferito il regime di governo Stato-Chiesa nelle regioni. Ecco, ma c'era anche in filigrana questo, ma penso che giochi una, insomma, noi ancora oggi, anche se lo contestiamo in buona parte, ma insomma la Chiesa la vediamo anche come istituzione, e l'istituzione senza dubbio nella fisionomia che assume ha un suo peso, vero? Se potesse illustrarcelo un po' di più la correlazione tra questo determinato tipo di organizzazione di istituzionale ecclesiastica e tutto quello che è stato detto, mi aiuterebbe un po' a capire meglio le cose. Grazie. Presenti così. Don Girardello. Don Girardello. Ceia. Del MLAG. Ceia. A me sembra che la lezione sia stata interessante, ma due osservazioni vorrei fare, proprio per completezza, mi sembra. La Chiesa è presenza legittimante la conquista, questo oramai è un dato di fatto, però mi sembra che te la sei cavata molto facilmente quando hai fatto un'affermazione dentro la quale poi bisogna leggere, dici, l'evangelizzazione, cioè il secondo passaggio. E mi sembra che su questo secondo passaggio, che eventualmente dovremmo approfondire un po' più, appunto da un punto di vista fattuale di quello che è avvenuto, cioè avvenuta la conquista, la Chiesa cerca di umanizzare la colonizzazione. Ora, la colonizzazione è un fatto nuovo da un punto di vista storico, nasce una novità da un punto di vista proprio strutturale. E noi dovremmo, mi sembra, appunto da un punto di vista proprio di fatti, di capire che l'evangelizzazione avviene dentro un contesto di violenza, e di violenza che poi diventa anche una violenza istituzionalizzata. Tu hai riferito dell'encomienda, e l'encomienda è il luogo dello stato di peccato mortale di tutti gli spagnoli e anche noi. Il primo discorso di Montesinos ha un suo valore, perché l'encomienda poi continua. Non è che l'encomienda termini, l'encomienda continua, anzi, poi ancora mi sembra, tutta la questione indigena è in correlazione anche con la questione africana. Tu hai analizzato giustamente solo la parte spagnola, ma non si può, mi sembra, anche tenendo presente il fatto, tutto il fatto della tratta dei negri e la presenza dei negri in America Latina proprio in sostituzione del mondo indigeno che viene meno, che questa mano d'opera viene meno, che è dentro l'encomienda o la mita e la miniera, e allora c'è tutto il fatto della schiavitù negra. In altre parole, voglio dire, sì, è vero che la Chiesa in qualche modo dice cosa fatta capo A. C'è una bella lettera del superiore dei gesuiti che scrive a due colleghi gesuiti che vanno in Salvador de Bahia, dove si lamentano perché la schiavitù negra è un fatto che li orrorizza, e loro dicono: noi siamo venuti qua per evangelizzare, ma noi stessi, i gesuiti, abbiamo le nostre fazende e abbiamo gli schiavi negri. E poi raccontano altri fatti. La risposta del superiore è interessante, a me sembra, perché dice proprio così: se volete ritornate, ritornate, ma ormai la cosa è avvenuta, cosa fatta capo A. La colonizzazione è quello che è. È quello che è. Cioè, in altre parole, è all'interno di una struttura di violenza come è la colonizzazione che dobbiamo capire l'evangelizzazione e i limiti anche di una evangelizzazione. È vero che una coscienza, in fin dei conti, che è una persona deculturizzata, l'indigeno, ma è anche una persona deculturizzata anche l'africano, ed è all'interno di questi due processi di deculturizzazione che dobbiamo anche capire i limiti dove avviene e come avviene l'evangelizzazione e la fatica dell'evangelizzazione. A me sembra che questo lo dico, lo faccio anche per integrare in parte, mi sembra, quello che ha detto Armido. E quindi, scusate, termino dicendo così: sì, umanizzare la colonizzazione, in altre parole l'esercizio della infinita misericordia, ma un esercizio di infinita misericordia che ammette che la violenza c'è. Vabbè, grazie. Qui a Trento siamo vicini al mondo germanico. Voglio che sia rispettosi del tempo. Quindi adesso do 5 minuti a Rizzi di rispondere. Se sarà più breve daremo lo spazio a un'altra battuta, perché vogliamo alle 5:30 fare un break di un quarto d'ora esatto per poi ricominciare. Beh, non torno sulle cose dette da Grasso, perché mi sembra così. No, no. C'è il padre missionario parroco di Potenza, mi pare, no? Ma sì, la simpatia con cui io guardo queste cose non è confessionale, è dovuta, credo, a questo, che io sono, diciamo così, un teorico della vita quotidiana, nel senso che credo che sia la vita quotidiana il luogo originario dove si gioca il senso e quindi anche il non senso. Se vogliamo, il luogo originario dell'utopia, il luogo originario della, in termini biblici, della lievitazione messianica dell'esistere. Ecco. Allora è per questo che io in genere guardo con simpatia tutto quello che è star vicino alla gente, anche dentro i contesti sporchi, e senza gridare contro questa sporcizia, no? Accompagnare la gente lì dentro. Ecco, questo credo sia la fonte della mia, ripeto, simpatia umana e anche di conseguenza ermeneutica, cognitiva, nei confronti di questi tipi di fenomeni e anche di altri, magari a senso in tutt'altri campi o intesi. Bene. Questo. Non so nulla proprio, ma per ignoranza voglio dire, so poco di più di quello che ho detto, o comunque non avrei poco da apportare per illuminare, per rispondere alla domanda di Don Igino. Quindi sarà da rivolgere ai successivi relatori. E invece a Giulio Girardello dico sì, probabilmente io sono un po' scivolato via, però era mia intenzione dire, ecco, credo anche di avere proprio detto che dall'ambiguità tra il religioso e il politico, addirittura detto anche il biologico, no? Forse in Spagna nasce l'ambiguità radicale della conquista e poi della colonia come luogo istituzionale dentro il quale avviene tutta l'evangelizzazione, ecco, e che a un certo punto, tolto il Las Casas e qualche altro, mi pare poche altre eccezioni, viene dato scontato come il quadro appunto dentro il quale bisogna vivere. Allora anche qui direi, nella mia mancata poi insistenza su questo, che comunque ti ringrazio di avere ribadito, perché se non fosse stata abbastanza chiara, benissimo, io sono completamente d'accordo con le cose che ha detto l'ultimo intervento di Giulio Girardello, no? Cioè che è questo il quadro, e questo quadro è un quadro appunto della che, come dire, che in qualche modo ecco, compromette tutta la pratica evangelizzatrice, in qualche modo, ecco. Allora poi, perché sì, ecco, io non l'ho chiamato violenza istituzionalizzata o però ho detto violenza, mi pare strutturale, no? Cioè sono istituzioni che come tali, ecco, sono istituzioni violente, così come la schiavitù, no? Allora Paolo aveva il suo da fare, dire, ma umanizziamo la schiavitù, e raccomandava a, come si chiama, a Filemone, no, di trattare lo schiavo come un figlio, eccetera, eccetera, eccetera. Però non aveva capito che quella istituzione, come tale, no, non era affatto sulla linea dell'ordine di creazione, ma era una lesione dell'ordine di creazione. Questo limite, in parte di interesse, ma forse anche proprio intellettuale, mentale, era certamente anche il limite di buona parte, forse di quasi tutti, i missionari. Dentro questo però, allora poi dico, perché io ho preferito sottolineare di più forse l'altro aspetto? Beh, perché qui il problema non era direttamente, no, quello della liberazione, ma della evangelizzazione, che certamente è connessa, ma che dove la prima non esaurisce l'altra. Secondo, per le ragioni che ho detto appena prima, e cioè che io credo che il luogo originale appunto della quotidianità è il quotidiano, e che i quadri istituzionali non sono il quotidiano. Allora che sia possibile umanizzare anche dei quadri istituzionali che in se stessi restano ingiusti, no? Adesso non vorrei fare il polemico, sì, sì. E soprattutto no, ma voglio dire, non vorrei essere frainteso, lo dico così, come una mezza butade, ma che è anche una mezza verità. Insomma, appunto, siamo in una terra, no? che è stata l'ultima terra italiana sotto un potere straniero, sotto il tallone dell'oppressione straniera. No? Dopo aver provato cos'è la libertà, sotto l'Italia, come liberi cittadini italiani invece che sotto il potere dell'Austria, io non so, ecco, quanti trentini non sognano di tornare sotto l'Austria. Dico, è una mezza butade, ma è anche una mezza verità. Cioè, cosa voglio dire con questo? No? Vuol dire che le istituzioni, ripeto, non sono il luogo originario del senso. Almeno questa è la mia convinzione, ma non solo emotiva, no? Ripeto, teorica, in base alla fenomenologia della vita quotidiana, dei mondi della vita e via dicendo, che non passerà. Questo mi porta a vedere che poi di fatto loro siano riusciti a umanizzare. Bene, questo è il discorso fattuale che io lascio agli storici, ecco, di professione. E poi grazie anche di aver ricordato, Giulio, sì, appunto, che io ho lasciato da parte totalmente questa, per una scelta non tanto metodologica, ma proprio per la mia ignoranza, no, il problema dei negri. Sì. Grazie. Allora, coloro che hanno veramente volontà, desiderio di lavorare, un quarto d'ora di tempo solo. Gli altri invece passeggino.